preparazione, ce n'è per i cani e ce n'è per i porci, quindi credo che vada bene, credo che vada bene. Poi quando inizia, quando hai un impianto di antenna buono, hai la radio buona, tu hai l'ultima radio, una radio eccellentissima, quindi dovresti andare meglio, dovresti andare meglio. Sì, capisci, sì. E vabbè, io nella macchina nuova non volevo mettere un barrasone o una radio brutta o vecchia o roba del genere, ho messo una radio nuova, che brilla, che sia presentabile. E comunque niente, adesso si proverà, poi si vedrà. Però oggi stesso ho sentito Salvini e mi ha detto che stava parlando con me, mi ha detto che stava andando a Usilo a vedere se c'era la neve, invece poi non ne ha trovato. Comunque mi ha parlato da Usilo e arrivava a Santiago Nove, capito? Da Usilo a Santiago Nove, vedi. Poi magari con la radio originale, senza aiutare niente, ed è già buono, anche perché devi considerare che non è un'antenna piazzata, è in barra mobile, però non è sempre una cosa precaria perché sei su base magnetica, quindi sicuramente quell'antenna lì è stata studiata apposta per lavorare in base magnetica. E a volte la base magnetica, se tu prendiamo in fondo la base magnetica, meglio è del piano riflettente, diciamo, a contatto con la capota, perché la base magnetica lavora tramite magnetismo, non tramite contatto. Mi segui? Sì, ma poi vabbè, il piano riflettente lo prende lo stesso dalla macchina. Ma in ogni caso, quella base magnetica è fatta in tal modo che abbia anche una bella massa, perché all'interno tu non la puoi smontare l'antenna, perché se la puoi smontare ma devi sfasciare tutto, perché c'è tutta la stagnola davanti, come tutto il gommino c'è la stagnola, capito? E poi c'è la calamita che è 3 volte più forte della mia, pur essendo più stretta, la vai a togliere, non riesci a toglierla. Vedi, perché l'innovazione già è per tutto, non solo per i computer e queste cose qua, l'innovazione è per tutto. Ma io penso che questa antenna, io pensavo che fosse di vecchio stampo, ora sicuramente è russa o tedesca, roba del genere, è di vecchio stampo, perché questa antenna era stata trovata in un magazzino, capito, l'avevano data a Salvini, quindi sicuramente era roba di tanti anni fa. E lui sta modulando con un apparecchio da 2 watt, capito, con un portatile che dà 2 watt, da Usilo arrivava a 9, figurati se ci mette un apparecchio performante. Ah, quindi non è un'antenna nuova, è un'antenna alla stanza. Ma io pensavo così, non lo so se poi penso male, però essendo stata immagazzinata così e la persona non c'è più, capito? Quindi sicuramente qualche cosa di anni ce l'avrà. E allora non lo so, io non l'ho neanche mai vista questa antenna, mai. Non ho proprio esperienza in materia di questa antenna, di questa tipo di antenna, quindi ho visto che è molto bella, cioè è molto bella da vedere, è un'antenna che è carina, che non è, sai, un'antenna pesante da vedere, non è un'antenna ingombrante, è una cosa che si può tenere tranquillamente, anche se fa un viaggio lungo e devi tenere una velocità di crociera di 110 km/h che ti permette di andare, non avere pensiero che te ne esce dalla capota e ti spacca la macchina. E meno male che non verranno in macchina da lì, sennò magari fai dare anche le altre macchine e tocca pagare anche quelle. Ma comunque in ogni caso, poi quell'antenna lì è troppo grande, ti fanno le battute che sembra la macchina d'autoscontro. L'altro giorno sono andato a comprare roba per gli animali, lì c'è la strada di Alghero, e la con me, sa che c'ho confidenza, ma ha detto, oh già, senza antenna si è rimasto. E gli ho detto, lo so, io ho la passione, con questa antenna qua arrivi da tutte le parti, se prendi una piccola non ci arrivi. E invece poi mi sbagliavo, vedi, ce n'è una più piccola che va meglio di quella. Sì. È fatto bene, Alfredo, l'ha fatto bene. Già, l'ha fatto benissimo. Non so, come la piazzi, fammi uno squillo che la proviamo anche come ti arrivo, come mi arrivi qua da me. Così vediamo delle comparazioni. Però portati anche la 2001 mi ha preso per fare le prove. Comunque in ogni caso, dovrò controllare le stazionali prima di provare. Perché sono fatto così, devo essere a puntino. Lo so dove va a controllare le stazionali, già. Proprio io dove, guarda, ti posso dare un consiglio, dove andavo io a controllarle, io me ne andavo a Portoferro. Io invece vado al quadrato, a Sassari, che non faccio chilometri. Lo so, ma ci sono palazzi già, ci sono palazzi. Di là nel punto dove andavo io non c'era niente, ma proprio era, non è quello Portoferro spiaggia, era una, c'era una strada bianca di lì, e poi trovi questo campo aperto ed era assurdo, guarda, mi portavo il rosmetro. E guarda, facevo, ci mettevo un attimo veramente, perché poi non ti vengono dubbi, ma c'è il palazzo, non c'è il palazzo, ma c'è quello, non c'è quello, perché a volte sembra così, anche i cavi elettrici, queste cose qua, influiscono. Ma al quadrato io l'ho sempre misurato, è sempre giusto, sono sempre misurabile al quadrato, oppure anche se sta andando al quadrato vicino a casa, la strada che va al monte, di lì è tutto libero, ti metti nel parcheggio, 5 minuti e te la fai, alla panoramica, e ce n'è di flussi vicino a casa se andare lontano. Non vado a Portoferro, lì ce ne sono di flussi. Ah, lo so io dove andare, l'ho sempre misurato, lì al quadrato me l'ho anche tarato, le antenne tagliate per farle scendere di stazionale, e sono riuscito a farle scendere a uno oppure. Allora sei tu che facevi bucare le gomme con i pezzi dell'antenna, tagliavi il pezzo dell'antenna, ti mollavi in terra, te lo immagini? Ce n'è una portatoresca che fa così, senza fare nome, pippia, negava i giorni, si rilappa i piantonelli, e così vengono i clienti. Sì, è vero, brutto, sì. C'è vero, io. E comunque, adesso guarda, se sono libero domenica, devo abbassare il traliccio e sistemarmi, farmi un lavoretto alla Grazioli perché c'ho l'antenna a filare, no? Devo mettere una carrucola per sollevare anche l'antenna a filare. Quindi domenica ne avrò tutto il giorno. Che cos'è questa antenna filare per 40 metri? Me lo ho costruita io con il toroide 030 dell'admin, che ho fatto il malo, il shock, è un'antenna, in pratica è una, si chiama Longwide, sarà così da meno, però io me l'ho costruita per puro orgoglio personale. Ed è 30 metri, ha un cavo elettrico di 30 metri, il cavo elettrico da 4 o da 4 mm, da 30 metri. Io l'ho messa lunga, diciamo, dal traliccio, dal sopratraliccio, e l'ho ancorata a un albero con degli isolatori. E mi dava 2,1, 1,7, 2,1 di stazionarie. L'ho fatta poi invertita, da terra al traliccio, poi di nuovo a terra, no, 1,1, 1,2 di stazionarie in tutto. Poi l'ho messa, adesso l'ho, diciamo che è in condizioni precarie, ma domani, domenica me la metto bene. E riceve bene. Già, una telefonata sono, nei 40-80 metri sono una telefonata, non senti QRM, non senti niente, ma niente, niente, niente. Cioè solo diciamo, gli operatori che parlano, è una cosa pulitissima. Peccato che in 27 sia un pochino sorda, in 27 è un po' sorda, un po' sorda e anche un po' così in trasmissione, però a me mi serve solo per l'ascolto. Ah, ok, io ho fatto una scoperta nuova, ho trovato la tabella del ricevitore dove c'era 27 numeri di frequenze, cavolo. Addirittura per andare sui 30 metri, sui 10 metri, sugli 80 metri, già predisposto, io prima mettevo la frequenza, invece lì è già predisposto, metti per dire 30 metri e ti fa partire dalla frequenza di 30 metri in cui, capito? Sì, ti dà 1,8, 3,3, ti dà 1,8, 3,5, 7,1, 24, 28, sì. Già quello dovresti provarlo con un'antenna, facciamo provare tra l'aperto con la loop magnetica, tra l'aperto tra la provi, non è un problema quello lì, già lo sai che non ci sono problemi, e tanto io ce l'ho smontata, io ce l'avevo quella del ricevitore, non è che l'avevo altra, l'avevo montata sull'altezza, quando mi è arrivato lì come stavo usando quella, e anche quella è molto silenziosa, e riceve bene. Però vabbè, il filo, questo pezzo di coso me l'avevano detto, fatelo, compralo, ve l'ho costruito, e niente, e ce l'ho, domenica devo farmelo bene, e provo a farmi un cavo di 16 metri, perché la misura è o 16 o 30 o 30, o 16 o 20 o 30 metri, o addirittura 40 metri o 53 metri, però adesso provo a farlo da 16. E via. No, capito, come l'hanno regalata addirittura un'antenna con la base magnetica della Diamond, e me l'hanno regalata, l'ho provata, beh, si sente meglio con quella che è sul tetto che con quella lì, e l'ho ritornata, non l'ho voluta. E tu guarda, non ti offendere, tanto arriva più forte con quella dal tetto, quindi preferisco quella, lascio quella lì e poi non c'ho roba in giro, invece con queste cose ti c'è il cavo in giro, tutto gatto, ora tu casa, no? Invece lì attacco il filo e basta, e passa dietro, non si vede nulla. Non voglio troppa cose in giro in casa, io sono un po' particolare, non mi piace disordine. No, vabbè, io non ho roba in giro, io ho tutto, guarda, a me mi passano i cavi in cameretta della bambina, proprio dietro mi passano sotto il letto, mi passano uno, due, mi passano cinque cavi, poi vanno tutte dietro il mobile, tutti messi bene, mi passa il cavo di terra, ho la vista è abbastanza ordinata, non perché a parte il fatto che la mia compagna non me ne fa tenere, roba disordinata, e poi non piace neanche a me. Allora ti dovresti mettere un commutatore, ma ti metto un commutatore all'antenna che ti fai senza stare a invertire, ma ti viene meglio. Sì, vabbè, questi commutatori lasciano sapere che poi trovano, una volta sono impazzito col commutatore della ZG, ho comprato un nuovo di zecca da Fusaro, l'ho piazzato e niente, andava bene tutto quanto, io no, metto il commutatore stazionare in fondo scala, che prendo il regolo di nuovo tutto quanto e niente, sempre fondo scala, detto qua c'è qualcosa che non va, e ho fatto 1000 prove, 50.000 prove, alla fine non ho staccato il commutatore, l'ho messo in filo diretto, 1 e 1 di stazionare, no, vale, allora il commutatore, l'ho aperto, l'ho controllato, nuovo mi l'ho preso, ho fatto male che non gliel'ho portato subito indietro, mi sono fatto tornare nessuno. Beh, fatto sta che dal nervoso al giubileo si regge tutta la mondezza e non ne ho più messo di commutatore. Adesso tu mi direi, ci sono quelli più buoni, sì, in effetti è vero, ci sono quelli buoni, costano una barca di soldi, ma ne ci sono. Però boh, a me non mi costa nulla, tanto io c'ho il mobile con le ruote sotto, lo sposto e praticamente faccio, svito un filo e lo metto nell'altra apparecchio, c'ho già predisposto, capito? Sì, a me me l'ha regalato uno Claudio, di commutatore, ottimo, un ottimo commutatore, cioè pesa quasi un chilo. di strategia hanno un pezzettino di filo, hanno per, diciamo, per commutare quei commutatori, come si deve, hanno la lamella. La lamella già, sono diversi, anche io ero contrario a queste cose, anche io la verità ero contrario, però vabbè, io adesso ce l'ho in ricezione con il ricevitore, il commutatore antenne, ma l'ho provato anche con la carta, mi dà sempre un numero di stazionarie, ma non con l'accordatore inserito, senza accordatore, è misurato col rosmetro, col Ego Supercar, quindi sono cose abbastanza, quando è buona già è affidabile. E va bene, non c'è nessuno stanotte. Vabbè, ce ne saranno tanti in ascolto. E quando stavo dicendo, ma ricordati una cosa, che tu ogni strumento che metti per disegnare, per cui io già ho rosmetro, vattometro, accordatore attaccato, ce l'ho sempre inserito con la luce, con tutto qua, quando voglio vedere tutto prendo, accendo e vedo tutta la malata di notte, per il giorno vabbè si vede. E si attacchi tante cose, è quella la ragione, puoi disegnare da un strumento che attacca. Sì, è vero, se tu ogni passaggio che fai, allora tu considera che già di natura hai dalla radio all'antenna hai due passaggi, perché hai il pelo della radio e il pelo dell'antenna, e quelli sono due passaggi. Poi se metti il ponte per il rosmetro, poi la rosmetro magari va a lineare, oppure fai dalla radio a lineare, da lineare al rosmetro, poi la rosmetro dal rosmetro all'antenna. Quindi guarda che quando arrivi in antenna hai perso quei 4-5 platti, non scherzo, c'è tanta perdita. Io sono curioso di fare una prova adesso, voglio prendere la lunga, una prolunga sul tetto, non a tempo buono lo faccio, porto una prolunga sul tetto, sono una batteria di macchina, cioè una batteria nuova, ecco, voglio partire dalla radio liscio, arrivare su in antenna, attaccare, prendere i barilotti, attaccare il lineare rosmetro e poi l'antenna, capito? Tutto attaccato all'antenna, voglio vedere con quanto esco in antenna. Falla la prova, tanto fare prove non è mai troppo, da ogni tanto si fa, anche per sapere come comportarsi, come fare, è sempre meglio avere tutto davanti, dai, ogni tanto fare queste prove fa bene. Sì, perché secondo me, se io parto dalla stazione, diciamo, parliamo un esempio, io ho Superstar per fare queste prove, parto dal Superstar e arrivo su in antenna, no? Cioè, per fare, io ho 22 metri di RG2, cioè RG8, arrivare su in antenna, secondo me, se io gli metto 2 watt di radio, su in antenna ne arrivo con uno, e ne sono troppo sicuro. Quindi in quel modo cosa fai? Ti guardi prima il vantaggio che arrivi su in antenna, magari metti 4 watt in antenna e sono 4 watt, e poi di lì attacchi lineare e rosmetro. E sai quanti watt effettivi hai in antenna, logicamente un po' li disperde in calore, però già sono prove da fare in modo che sai anche quanta perdita c'è il cavo. Sì, per renderti conto, sì, ma l'RG8 già è abbastanza perdita, non è un cavo che è abbastanza spesso. Io invece ho l'H1000 che è fino, però abbassa perdita. Hai l'H1000 o l'H100? No, l'H100, scusa, ho sbagliato. È un cavo buono, non ha niente a che vedere con l'RG58, cioè è un cavo molto performante. Ma io nell'RG58 proprio me ne accorgo che è un cavo. Lo sai che l'RG58 ne avevo fatto una serie rossa tedesca e dice che è molto molto buono. Io ho avuto l'RG58, l'ho tenuto 12 anni, quando l'ho tolto era secco, però dentro non era nero, era perfetto, non era bruciato. bruciato né nulla, era solo la guaina che si era seccata col sole, si era diventata a tetta. Sì. Dipende, perché ci sono gli orologi 58, sembra così, forse tu te ne sei anche accorto. Ce ne sono due tipi, c'è un tipo con la calza, diciamo, cromata, e un tipo con la calza in rame, color rame, confermi? Sì, ce n'è un tipo che era tipo stagnola, come di carta. Bravo. E secondo te il motivo quale? Della massa e della schermatura del cavo. Bravo. Se tu metti quei cavoli, sembra così, ma è meglio, molto meglio, che è quello, diciamo, con la calza croma, con la calza di rame, color rame. Quello con la calza, diciamo, grigia cromata, quello non serve a niente, ma a niente, ha proprio filini di rame, mentre quello, 1658, quello, che poi ti dico anche una cosa, quello che con la, diciamo, la calza color rame e con la schermatura, quello è ottimo. E quello lo trovo a Porto Torre a 75 centesimi al metro. Io vi apro 5 di Piotte. Positivo. Lo sai perché porta quello lì, quel signore? Perché vende molto sulla nautica, capito? E sulla nautica mettono quel cavoli. Ma qual è, quello bianco oppure quello sempre nero? Io lo so, lo conosco bene, di lui. Sì. No, è quello nero. Quello nero già. Però lui lo porta apposta. Lui lo porta apposta perché lui per la banda nautica, quindi ha detto io lo faccio pagare il giusto, ne vendo tanto, perché quando poi adesso ne ha portato un bel po', perché stanno cambiando tutti i VHS a bordo delle pescherie, a bordo delle barche da pesca, capito? E l'ho preso io, me l'ho preso quasi una bobina. Ed è di quello buono, vedi, quello buono. Quello anche a fare di furio va bene. Scusa, già? Anche a farti il dipolo va bene. Io il dipolo ce l'ho con quel cavo lì, fatto con quel cavo, però poi ho cavo elettrico. Sì, mettendo quello hai direttamente i 50 ohm in antenna, non devi stare a fare nulla. Certo. Sì, lo conosco bene. Quelle... Lavora la sigla e c'è il ficcianegozio. No, è solo Battista, e lui diciamo che c'ha il negozietto, c'ha il negozio. E lo so dove, qui vi ha principio di Pianone, capito chi è. Sì, ci ho comprato diversi spinotti, lì qualche cosa l'ho comprato. Sì. Guarda, quello ha delle antenne diciamo TV, la paghi una certa cifra, perché per ora tutta roba della Telecom, tutta roba buona. Io l'ho comprata qua per caso, l'ho pagata 240 euro, mi sa che l'avevo già detto. Poi ho preso, ho amplificato l'antenna del primo, la V è l'antenna del primo, e ce le ho, e sono assurde. Certo, la cosa che costa è migliore, c'è poco da fare, quello che paghi poco vale poco, mamma diceva sempre così, paghi poco ma vale poco, quando tu la compri una volta, la paghi una volta solo e spendi meno che comprartela 30 volte che non serve. Esatto, molta gente non capisce quello, la compri una volta e basta. Va bene, qua c'è ancora Sanremo, la raccolta di passione. Guarda, a me la musica piace, però Sanremo lo vedo come una cosa che non è, è una cosa tutta quanta elaborata, tutta con gente che è incozzata, c'è un po' di manfine a mezzo, non mi piace per quello, capito? Vedo che c'è, non lo so, mi sa che sanno già chi vince, capito? Sì, vabbè, caspita, tu pensi che sia il contrario, quella è una cosa già, diciamo, è tutto già scritto, per carità. Io, guarda, a me piaceva molto quando c'era il Festival Bar, a me il Festival Bar piaceva morire, quando c'era la musica anni 90, caspita, bello, Festival Bar ti proprio dava senso d'estate. Sì, e anche io lo guardavo. E poi anche Assassin aveva fatto un bello spettacolo. C'era Megan Lee che presentava e c'erano tutti i cantanti famosi in Piazza d'Italia, mi hanno aperto. E questo qua a casa si è messo a lanciare l'acido a Megan Lee, la ribizzicando subito, di Luigi Lombardi l'hanno acchiappato per i capelli, cazzo. C'aveva i capelli lunghi, era un cappellone. Abusare l'acido, ma stiamo scherzando, che tu rovini una persona, cioè, ma adesso se colui lo prendeva a faccia, no? E rovinava Megan Gale ai tempi, cosa cosa bisogna fare? Non lo so, quello lì l'avrei preso e l'avrei messo a lavori forzati a vita. Oh, non voleva entrare in macchina, era ricutto un capo, era montante, cazzo, non voleva entrare in macchina. Io la vedessi entrato, E ha avuto dei maragani, ci sono messi vicino al bar, la polizia, tutti seguendo in piazza, l'hanno investigato, se un vicino non ha abitato un bar in bene. Ma no, già, no, queste qua sono cose, quello è essere proprio cattivi d'animo, quello è essere proprio cattivi d'animo, perché non è una stravaganza. Una stravaganza posso capire che uno prende, vuole essere al centro dell'attenzione, apre una bottiglietta d'acqua e gli tira l'acqua, che non si deve fare, però noi siamo tutti uguali, ognuno nella sua vita fa quello che vuole, quindi apri una bottiglia d'acqua e tirarla, diciamo, al presentatore, l'abbiamo già visto e lo vediamo tutte le stagioni a noi, che volano la fine di birra, volano tutto, però poi c'è la sicurezza e poi soprattutto nei paesini. Però quando tu prendi e butti dell'acido addosso a una persona, quello lì, io l'avrei accusato come tentato omicidio. E non lo so cosa gli hanno fatto, cosa gli hanno regato dentro. Comunque si è visto il fumo uscire, quindi è l'acido. Allora io ero con mia figlia che era piccola, quella lì, si è spaventata perché ha visto questa scena. Perché lo stanno seguendo e poi è una persona cattiva, ma non è. Ho detto, cosa vi dovevo dire? C'erano tutti i cantanti famosi, c'era Radio 101 che faceva, diciamo, intrattenimento. Sì, ho la sponsor ufficiale, R101, R101.5, già, non so quanto ne vedo io ai concerti di queste cose qua. Una volta io ho visto la Porto Torres, ho visto, presente quella giornata che gira e ti mette a testa in giù, hanno lanciato un coltello aperto, da quella giornata, quando era a testa in giù hanno lanciato un coltello aperto, il tipo ha fermato subito la giornata, non lo so cosa è successo, però secondo me li ha picchiati perché poi sono intervenuti ella e secondo me li stava per picchiare. Cioè, il tipo che era a testa in giù ha lanciato il coltello a chi c'era giù. Sì, per questo era una graffetta di due o tre persone. L'hanno preso dalla giostra e volando, si è vista questa cosa volando. Tu arrivi a terra ed era un coltello aperto. Il coltello in volo non si apre da solo. Era il coltello aperto, quindi è una cosa fatta per far male. No, c'è gente impazzita. Io dico sempre. La gente sta impazzendo, non si rende più conto di quello che fa. È grave. Quello è coltello grave. Allora, io invece, Gabi, ho visto una cosa quando lavoravo alla giostra, perché quando venivo a casa, vicino a casa ci lavoravo, avevo la ruota panoramica tutta per me, la guidavo io, facevo salire la gente, la guidavo, facevo, incassavo, eccetera. Ero pagato a giornata. Fatto sta che ho visto una cosa, questi qua ho visto i seggiolini volanti, quelli che dovevano prendere quello straccio che ha preso. Questo qui ha lanciato a questa ragazza, si stacca il seggiolino, cazzo se ci incarriva. Ma scherzi, una cosa del genere era successa, quello te lo faccio raccontare anche da una compagna, ma lo capiterà che ci vedremo, ma te lo faccio raccontare. Vabbè, questa cosa qua è successa che io non ero neanche nato, però volevo raccontare sempre mia madre che le giostre mettevano ai giardinetti di San Gavino e si è staccato un seggiolino e uno è morto, capito? Mentre a Olmedo, questa però vorrei, mentre a Olmedo un anno eravamo a festa di Olmedo e ci sono le giostre di quelle, diciamo, le chiamano Zanfretta. Questa giostra girando i seggiolini prende e si stacca il seggiolino e rimane questo ragazzo in bilico attaccato a un pezzo di catena. Ha avuto il riflesso di prendere e tenersi all'altro e l'ho chiamato il tipo del controllore, quello che prende i gettoni che rimane intorno alla giostra, l'ho chiamato e ho fatto: oh, guarda che c'hai un seggiolino che si è staccato e c'è la musica alta. Cosa, un mezzo barbone, un mezzo, una persona incompetente, un'incosciente, gente recuperata dalla strada. Come l'ha visto, guardato il collo, ma questo ti sto parlando di che è durato due minuti, questo tipo a voce appeso, capito? Alla fine ho fermato la gente, cosa ha fatto? Ha cambiato il maniglione e ha tornato a partire un giro. Sì. Oh, questa ragazza l'ho portata via in ambulanza, non so qui cosa si sia fatta, è caduta rovinosamente in terra, ha fatto un bel volo, perché questo l'ha lanciata coi piedi, e ha puntato i piedi dietro, l'ha lanciata per prendere la bandierina e si è staccato in quel momento, perché non è altro che poi ho guardato, è un gancio che praticamente non è fissato nulla, capito? Se secondo come gira esce fuori. Sì, sono mezzanelli, diciamo come tasselli sono fatti tipo quei tasselli a muro che non è chiuso, che si possono aprire, poi sono da 0,5, neanche da un millimetro, neanche da un centimetro. È tutta roba aggiustata, fraggiustata. Forse con la ballerina degli anni tuoi, diciamo, quella che c'è sempre in giro, ma non hai visto che c'è la ruota dietro, cioè quando tu se capiti e si alza, tu guardi, c'è una ruota di carriola. Cioè non stiamo scherzando, proprio la ruota della carriola già, che la fa girare attorno alla base. È una ruota di carretta, non lo fa. È una ruota di carriola, è una vergogna. Io ho capito come facciano a farli passare le prove, diciamo, a dare l'omologazione puntiera a queste giostre. Le conoscenze e i mazzetti. Sì, le mazzette, lui dice come persone, non facciamo poco, poi quando succedono le cose deve esserci sempre la colpa di qualcuno. Adesso cambiando coso, hai visto che hanno trovato un altro che hanno fatto un mandato, che c'è un mandato di arresto per questo cozzolino che è implicato in quella roba delle tangenti dei mondiali del Qatar, l'hai visto dal giornale? No, non l'ho guardato perché ho giù con Tyson, è una cosa nuova per me, non so se è adesso. Sì, di Napoli, questo cottolino di Napoli, era europarlamentare lo stesso, ha ricevuto lo stesso mappette per la questione del Qatar, penso che l'abbia sentito quello. No, non ho sentito quello. Io Cozzolino ne conosco a Portottone, ne conosco diversi di Cozzolino a Portottone. Sì, vabbè, ma non sono di quelli lì, sono proprio roba di parlamentari, si chiama Cozzolino, anche questo qua, ma non sono di quelli di Porto Torres. Sì, lo so, ma pensavo che tu stessi parlando di qualcuno di Porto Torres, ma da Cozzolino hanno arrestato. No, di queste cose dei loro parlamentari, dello scandalo delle mazzette del Qatar, dei mondiali. Ne hanno trovato un altro, se no stanno trovando roba di mafia e queste cose qua. Siamo in un mondo corrotto, mio padre lo diceva sempre, c'è un marciume in questo mondo, così diceva mio padre, c'è un marciume in questo mondo che non ce n'è uguale. Sì, c'è anche un palmo di Monosano, mio padre. Già, il mondo ormai, il mondo siamo arrivati alla frutta, perché è brutto dirlo, è brutto, però secondo me succede qualcosa di brutto e non tra poco tempo. Ieri notte, prima di andare a letto, acceso il telefono, stavo guardando un po' YouTube, ho visto il mare che è entrato dentro la città Catania, quella zona lì, e entrava da quanto eravamo, si è entrato in città proprio, nelle vie, tutto pieno di acqua di mare, ma acqua alta. E allora, già, ormai no, ormai sono arrivata la frutta. Nostradamus aveva detto, io ci credo a quelle cose lì. Cioè guarda che quell'uomo ha azzeccato tantissime profezie. Sì, era stato anche questo terremoto che è successo in Turchia, era già stato predisposto da una persona, aveva già detto che succedeva questo terremoto, e in effetti è successo davvero. E ha detto che era questo mese che succedeva tutto quanto, e l'ha prediletto anche lui. Poi una cosa preannunciata. Sì. Già. Quella gente non sbarrava, non sbagliava, ed era. Non lo so. Si dice che il mondo finirà quando ci sarà un Papa Nero. Ma chi lo sa, manco noi lo sappiamo e non possiamo sapere se ci sarà una fine del mondo. Chi crede negli extraterrestri dice che praticamente verranno a salvarci e faranno come quando Dio ha messo l'arca di Noè, salverà le persone brave e punirà quelle cattive. Capito? Dicono così. A quello non ci pensa Gesù Cristo, non ti preoccupare. Quello non ci pensa Gesù Cristo. Non conosce né sabato né domenica per nessuno, quindi già è già arrivata, stiamo pagando tutto, tutto il male che per quanto non possa essere bravo, ma stiamo pagando tutto il male che abbiamo fatto. Ma inconsciamente lo facciamo anche noi del male, perché guidando la macchina inquiniamo, svuotiamo la terra, prendiamo il petrolio, prendiamo tutte le risorse che c'è la terra, e per la fine quindi succedono terremoti, svuotamenti di terreni, e crolla tutto. E allora, cioè, ma mi sentivi male quando modulo così a bassa voce? No. Così ti. Oh, Iuia. No, va bene, cosa c'è, fatto? Cosa c'è? Stai calmo. Dai che adesso controlliamo la zampa. Io ce li ho tutti e due qua. Sono geloso uno dell'altro. Vado a calettare uno e l'altro mette la testa per togliere la mano. Metto la mano un altro e l'altro prende e appoggia il culo alla gamba. Io sono assurdi. Questi due per capirli bisogna viverli. Adesso c'è uno, c'è il fratello Fonese che ha appoggiato la porta, l'altro ha appoggiato la sua schiena per non fargli appoggiare il mio sedere nella mia gamba. Qua, come faccio? Monilica, delinquente. Guarda, io c'è pappagallo di parlarti, no? E quando vado a carezzare uno, l'altro va a beccarlo perché è geloso e vuole accarezzare a lui, capito? Cosa allucinante, gli animali sono intelligenti, hanno i sentimenti secondo me come ce l'abbiamo noi, specialmente i cani sono un'intelligenza pazzesca, lo sai cosa fa il mio? Allora io ho una poltrona che è praticamente di quelle reclinabili, no? Quando mi guardo il televisore mi metto lì, mi stava anche giù e metto il braccio sul il bracciolo che c'ha a poltrona, no? Cosa fa il mio cane? Viene con l'uso e mi tocca per accarezzare. Sì, sì, vabbè, questo lo fanno anche, anche qui, anche loro, io a volte mi metto nel divano, prendo, no, loro vogliono stare a contatto. Loro vogliono stare a contatto, adesso sta camminando bene, secondo me sta prendendo in giro a me sto cane. Lo sta camminando bene. E tu vieni qua, poi guarda. Adesso sta camminando bene. Perché questo qua è un mezzo farabutto. Guarda, come lo camminando bene. A volte lo fa per attirare l'attenzione, capito? Perché vuole farla coccolarlo. E fa finta che il dopo perché vuole coccolarlo. E tu lo vedi camminando bene. Guarda, lo camminando bene. Oh, yeah. Allora, è può darsi che soffra anche di dolori reumatici e niente da escludere, oppure che magari abbia avuto qualche spina e sia uscita camminando. Può essere anche quello che ha detto. Comunque controllo domani per ogni avvenienza. No, lo controllo adesso. Adesso vado in cucina, mi accendo la luce, adesso che la bambina è fuori casa. Io li metto il loro pelo per terra, adesso che c'è freddo la notte stanno dormendo dentro casa, capito? Non li lascio fuori. Metto il copridivano e le sedie sul divano in modo che non salgano. C'è la loro copertina, gliela metto per terra, vicino alla stufa e rimangono qua al caldo la notte. Quando c'è freddo li lascio sempre dentro. Lo controllo adesso, adesso lo controllo di domi. A lui gli piace il formaggio, gli do un pezzo di formaggio, lui si fa tranquillo, io guardo un pochino cosa. No, ma forse lo fa apposta per attirare l'attenzione. Lo fa apposta per attirare l'attenzione. Poi va a toccare la carità e si mette a correre e non c'è niente. Sempre per mantenere tradizioni di funi, no? sì, sì, no, poi questo qua è qua. È assurdo, È assurdo. Lui l'avevo preso a Orune io, tramite un amico. Me l'aveva dato. E poi c'ho questo, diciamo, il pastore tedesco che è un campione, questo è un campione, questo qua è un pazzo scatenato, questo cane. Che cosa combina? Cosa combina? Cosa non combina? Questo qua fa delle cose assurde, questo qua prende ed è un cane che il formaggio è un po' a testa sua, è un po' gabbanzeno. Questo qua invece è obbedientissimo, è un cane, guarda, gli dici stai seduto e rimane seduto, guarda, è un gioiello, è un campione del mondo, è antideterrente questo cane qua, sì, perché se vede qualcuno è il primo che parte, guarda, rimane zitto ed è il traditore perché ti viene là dietro, questo qua si affronta. Beh sì, ti ho sentito strano già. Strano? No, non sono strano. Perché stavo leggendo e rispondendo a te. No, strano di radio. In che senso strano? Tipo una cosa distorta, come hai mollato il mic. Ma forse magari è il tastino. Sì, magari non ho premuto bene. Guarda adesso. Adesso è quello, sì. Si è fatto il foto, capito. E magari come non ho letto male, capito? No, pensavo strano di voce, capito? Perché ti stavo leggendo e stavo rispondendo a te nello stesso tempo, magari l'ho concentrato su una cosa e stavo facendo l'altra. E così ti. E adesso io già chiudo che controllo la zampa a lui. Cioè io te c'avevo la vicina a 270, non ho capito il motivo comunque. Non lo so cosa, forse non mi ha fatto effetto l'insulina della notte, me l'ho fatto in un punto sbagliato. Vabbè, comunque adesso controllo la zampa a lui, se c'è qualcosa così li metto qualche cosa nel cuo cromo o il citatreno, qualcosa, ma credo qualche crema, e li metto a nanna, e li metto la copertina e li metto a nanna. E gli occhi ieri ce l'avevo alta la glicemia perché ho mangiato la pizza e ma quando mangio la pizza mi sale in picco proprio che se mi sono spaventato. A quanto ce l'avevi? Quasi a 400. Sì, vai. Io ho mangiato stasera la pizza, ce l'abbiamo presa stasera e la ordiniamo a sorso, ce la porta. Io quando mangio la pizza già devo farmi l'insulina anche un quarto d'ora prima, mangiare la pizza dopo che mangio la pizza dopo tre quarti d'ora mi devo fare l'insulina da notte. Allora così rimane, però se mangio la pizza non devo bere aranciata, non devo bere verde, non devo bere niente, acqua. Acqua, allora così mi rimane normale. Però se mi azzardo a bermi l'aranciata a mangiarmi la pizza, lì mi sarà le stelle. Gabriele, era una vita che non ce l'avevo così alta, di solito ce l'ho sempre 135, 140, 155, ma a cazzo così alta non l'avevo mai avuto. Una vita, non me ne ricordo più se l'ho avuto mai così alta, mi sembra scusato, come ho fatto l'insulina subito abbassato. Sì, sì, perché voi ti senti dolciato in bocca, perché non te la fa mai. Cosa? Perché io quando ce l'ho alta, magari 210, 220, 240, mi fa questa cosa del dolciastro in bocca, me ne accorgo da quello. No, a me no, non me ne sono mai accorto, però non l'ho mai notato. E vabbè, comunque io me ne accorgo di più quando ce l'ho bassa che mi bira tremoloni, invece quando ce l'ho alta me ne accorgo di meno. Babbo Gabi, dai, ti saluto, buonanotte, dai, ci sentiamo, così vado a farmi l'insulina anch'io, notturna, e poi me ne vado a letto. Mi già ho preso la macchinetta, ci vai a vedere. Non ho più scansione, sensore non provato, ripeto la scansione. Cioè adesso mi sto provando il sensore. 171, 171. Se mi faccio la goccia, ce l'ho a 120. Questo sensore volevo cambiare io. A me me lo voleva mettere questa volta quando sono andato, ho detto no dottor, non li voglio, no. Io guarda con questa cosa del telefono, cercare l'app, li voglio, io casino. Ma facciamo la macchinetta. Facciamo la macchinetta già, la verità. La verità te la tieni molto sotto controllo, perché vedi tutti i movimenti della giornata e dai, è una cosa che te la tieni sotto controllo. Adesso c'è la 106 da 171, ma mi ho fatto un'insulina la notte, siete già in circolo più o meno, altrimenti ce l'avrei avuta 240, 250 dopo la pizza io, dopo la pizza. E poi io quando mangio la pizza mi porto l'insulina vicino al letto. Dopo un paio d'ore mi sveglio, se ce l'ho più di 200 prendo, mi faccio l'insulina, me ne faccio 3 unità e la faccio scendere, non mi interessa il moletto, lo faccio sempre già. Vabbè, quello lì, siamo noi che ci dobbiamo regolare, no? Quando è alta, io ne faccio 5 invece che 3, faccio 5 unità e ne faccio abbassare. Vabbè, dai, ci sentiamo Gabi, buonanotte, alle prossime. Già, dai. Tutte le prossime, già sono in radio anche domani, tanto già sono a casa. Va bene, ciao Gianni, grazie delle quattro chiacchiere, è stato un piacere, buonanotte. Ciao, ciao Gabi, ciao, buonanotte.